Franco, vabbè, ciao, vai Claudio. Mi avete chiamato, c'è il cane che sta abbaiando, qui c'è un signore nel giardino. Claudio, mi ascolti? 1, 2, 3. Ehi, 9:25, certo. Ho cambiato radio Claudio, come mi ascolti? Benissimo, alla grande, 9:25, radio 5. Va bene, ho provato un altro apparato adesso. Buono anche questo, dai. No, non sia a casa tua, tu. Ero senza occhiali, tu ce la massi. Si sente, dai. Va bene, un buon orecchio c'hai, senza ombra di dubbio. Com'è la mia voce con questo apparato? Non è quella di chi su Gabbo e Bugnetta, né più né meno. No, ero senza occhiali, ho visto 9:15 con picchi a 9:20, tu sei più alto. Però mi sembrava la timbrica quella del tuo microfono, invece stando attento sei a casa di Massi. Va bene. Farò mangiare poco, sì, questo è il Professional Line modello 700, Marco. E ti dico che dei ZG è l'unico Rosmacro Wattimetro che mi piace moltissimo, perché è serio e funziona bene. E fa HF, VHF e UHF, c'ha 4 attacchi dietro. Infatti si chiama Professional Line modello 700 da ZG. Gli altri sono una stronzata, questo va bene. Questo è 10 watt, 100 watt, 1 kilowatt. Hai visto, sì, la ZG qualcosa di migliore la fa, è che io ho comprato sempre roba a risparmio, convinto di risparmiare, e invece alla fine non ho risparmiato niente, perché ne compri uno e se ne compri un altro e non sei nelle stazionarie, ne compri un altro ancora e peggio dell'altro. Infatti conviene fare una spesa unica più grossa, però buono, e però tenerlo bene, non a sbatturarlo tipo in paramobile, no, assolutamente. No, vabbè, li ho venduti tutti e due. Mi ha sentito delle persone in radio e mi hanno già contattato, sono venduti tutti e due, anche questo modello 700 è già venduto, penso la prossima settimana vengano a prenderselo anche l'altro, adesso vediamo, se no li riporto io. Però sono due microfoni che io ho tenuto, che tra l'altro non sono i miei, me li hanno dati a vendere, che ho tenuto perché so che si possono vendere, capito? Sono buoni, sono ottimi rosmetri, ottimi strumenti, capito? Va bene, avanti Gavino. Claudio, come abbiamo questo apparato? No, con quell'apparato modula meglio Massimiliano, e quello è il serpente. Ma ha detto, ma che cavolo serpente? Questo va meglio, va, no? Ma io lo sento in saturazione, poi. Sì, sta strappando. Allora, non ho il serpente o il 44? No, non lo porti bene, te lo porta meglio Massimiliano. E adesso meglio va? Sono un po' distante dal microfono. Ehi, hai migliorato, però Massimiliano lo porta meglio, nettamente, vero ti? Vabbè, comunque, chi è Franco se non sbaglio? No, Gavino, il cognato di Massi. Ah, scusa, Gavino. Mi confondo sempre, qua, so che è il cognato, però nominativo, nome, no, mi dimentico sempre, scusa. Ciao Tino, ciao. Cambia, Massimiliano c'è la voce più grossa, c'è da dire questo anche. È un po' cuoco, ma è lui. Oh yeah. Va bene, dai. Claudio, ci sentiamo, dai, che devo mollare. Ciao Claudio, ciao Tino, ciao Gavino, ci sentiamo tutte le prossimine. Correti per me. Avanti, Tino. Bene, vabbè, dai, ci sentiamo fra. Ciao, Claudio. Eia, dai, ciao fra, tante cosce belle, buona cena, buon tutto alle prossime, ok? Ci sentiamo, avanti Marco. Saluti a chi è andato via, dai, mi sto distraendo, Claudio, che vado a fare il caffè. E poi che altro dire? Sono fuso, ci sono dal pomeriggio, dal primo pomeriggio in radio, sono fuso. Ciao Marco! Ehi, fra, tu stai chiudendo, una curiosità, fra, guarda la differenza, visto che tu sei più distante, guarda, da così a così, molto cambia. Da 6 a 8? Sì, tipico Claudio, ho visto, sempre due Santiaghi, giusti. Sì, te l'ho detto, qua va da 30 a 40, va bene con linea retta, sì, l'ho visto, bellino, vabbè, ma la RM Italy io ce l'ho, allo stato solido, però lo uso in HF, non lo uso a 27, non me la futti nulla, è praticamente un 200 watt, allo stato solido lo uso solo in acche. Usandolo qua dovrebbe dare intorno ai 280 watt, così quasi 300 watt. Però sprecato, non serve a niente più usare queste cose, dai, lasciamo perdere. Vai Giulio. Oh, claro, scusa un attimino giù, ma stai utilizzando l'85? Sì, sto usando l'80 col 440, anzi, la verità adesso l'ho passato al 430, ma non cambia, non cambia, perché mi sono sentito e la modulazione è uguale. Sì, MC80 col 430. No, ho notato la differenza dal 60, questo spinge un po' di più, E poi Antonio dice che c'ha il tocco iniziale, che appunto si distingue dal 60. Sì, ce l'ho e lo sto provando, quindi giusto per farlo andare. È nuovo, un ottimo microfono, lavora bene col 430 e col 440, perché spinge, capito, c'hanno il potenziometro. Col 140 è più o meno come l'MC60, perché non c'ha spinta di Mickey Gain, un quinto slider che l'hanno infatto. Allora, vabbè, è Giulio. Giulio l'hanno chiamato forse, Giulio? No, Giulio ha detto che stava andando, dai, stava chiuso. Ah, boh, non lo so. Ogni tanto noto che si abbassa la LC della modulazione. Oh, prima arrivava più forte. Quando mi hai fatto quelle regolazioni. Sì, infatti la modulazione è leggermente più bassa, come mai? Lascia vedere. Ora, e così ha cambiato, guarda, 1, 2, 3, prova. Non ci vedo un cacchio, sono diventato vecchio anche io. No, ti guarda che non hai il compressore o il processore disinserito, è impossibile. Auricchio, adesso mi hai fatto notare che l'amplificazione è molto più bassa. Bravo, sai perché? Noi, la testa, brava. Perché stiamo parlando in FM, il processore, insomma, dava un po' di fastidio. Ma sei tu. No, infatti l'ho tolto quando ero come FM e poi sinceramente mi sono dimenticato di inserirlo. Infatti ho detto, ho notato quello lì, quando vado la LC non spingeva come doveva spingere. Però non ci ho minimamente pensato, credi. Vabbè, oggi sono fuso nella testa, cazzo, sto facendo cose di computer da stamattina, ho la testa un po' svampita tra cose di computer per scuola di Nicolas, che stanno facendo queste videoconferenze, queste videochat, magari che si chiamano, lanciano i compiti, dobbiamo spedire, fare, sono più attaccato al computer che per i fatti miei oggi, va bene, è andata così, già va bene ora. E vabbè, siamo qua per questo, dai, non c'è problema, quando non te ne accorgi tu già me ne accorgo io. Ok, no, questo spinge, l'80 spinge, ce l'ho a 1,5, a 1,8 ce l'ho il Mickey Gain della radio, si vede che LC come siamo, LC, vediamo, ahia. È quasi al limite rispetto alla... All'altra è quasi al limite, dai. Vabbè, anche questa modulando è al limite, però se vado a fischiare magari fuoriesce, dividi poco ma fuoriesce. Ma perché ho abbassato il carrier, se no voi... E allora ho fatto una blu a 100 watt, ho messo a 85 watt, 80 watt di portante bianca, 120-130 modulati. Poi l'ho messa a 100 di portante bianca e se eravamo intorno ai 150 modulati con 440 con 440, stavamo facendo le prove con Franco, però non conviene, dai, io ce l'ho sempre così a 20 watt, 35-40 modulati, cioè va bene. Avanti Gabbo e Bugnè, riprendi Gabino. Ebbene Claudio, stavamo parlando un po' del progetto di Massimiliano qua, di cambiare il tavolo di trasmissione, capito? E dunque a me mi dicevi, io non sono buono come audio con questo microfono, cazzo. No, Massimiliano porta meglio quello, l'altro siete uguali, l'altro lo porti benissimo, però quello, la timbrica, io preferisco quella di Massimiliano. Niente di offensivo, Gavi, per carità, però è questione di voce. Anche tu, Marco, lo senti, come si dice, un po' metallico rispetto a Massimiliano. È tutta un'altra cosa, per me. Massimiliano, no? Sì, con una popolazione è molto differente. Prova a parlare, Massimiliano, per vedere. Allora gioco lontano, là. Aspetta, mi avvicino un po', là. Molto meglio la tua. A più bassi, Massimiliano. Più bassi. Sto decidendo, Claudio, per mettere quella base che mi devi dare, mi capisco. Stiamo facendo dei progetti qua che fra un po' devo sbarazzarmi da qua, io capito? Devo fare un'altra cosa. Grazie a Dio, pure la base qui. Va bene, anche la base. Secondo me se ti buona fai meglio. Certo, c'hai molta manualità, te l'ho detto, ma non per prenderti in giro, veramente. C'hai molta manualità col legno. Lavori molto bene, per quello ho chiesto un'informazione al telefono. Lavori molto bene, io manualità nel legno non ne ho, proprio zero. Non mi sono mai messo qualche stronzata, ma però ho visto lavori fatti da te, veramente belli. Ciao Luca, riprendi. Volevo chiedere a Carmino se aveva chiamato una signora per caso per il televisore. Ripeti, non ho capito. Ho detto se ti ha chiamato una signora che gli ha dato il tuo numero tramite Massimiliano per un televisore. E ce l'hai il nominativo? Sicuramente sì, forse me l'ha portato anche. E lei si chiama... Bionda comunque, là. È possibile Luca, sì, possibile. All'inizio della settimana, un LG. Bravo, gliel'hai sistemato? No, sicuramente ci vuole molto digitale lì. È da madre. Ah, ho capito. Cos'è il plasma? A LED, non è a LED quello? A LED. Quel modello lì, quella serie lì, avevano dato un sacco di problemi. Bisogna vedere se c'è anche a disposizione quella scheda. Domani devo dare la risposta, infatti. Ma se non le vale la pena, puoi comprarsi uno, qua c'è il televisore e ti sbattono a fianchi. A me una volta costavano 1 milione, 2 milioni, adesso ti chiamano a fianchi. Io c'ho un Panasonic qua, nuovo, un 42, nuovo, ma veramente nuovo, è un plasma, funziona benissimo. E poi ne ho un altro che purtroppo sicuramente al prossimo anno non li butto, me ne comprerò uno che ha quel nuovo digitale, diciamo, là. I Panasonic al plasma funzionano bene, hanno poi niente a che vedere con le LCD, secondo me io li potrei ancora migliori degli LCD, dei LED, diciamo. Sì, adesso bisogna vedere se c'è a disposizione quanto costa, comunque le faccio preventivo. Certo. No, ce l'ho, ripeto, questo qua è Panasonic, è veramente fiammante. Ciò che ho messo da parte, perché mi sto usando un 32 che mi hanno regalato, la verità, me l'ho sistemato, gli ho cambiato il pannello LCD ed è perfetto. Poi mi sono comprato il telecomando nuovo, perché quello che mi hanno dato faceva schifo, non si vedevano più i numeri, tutto quanto. E adesso vediamo, là, sto decidendo, mi sa che mi rifanno, uno me l'hanno chiesto, un 32. Almeno 100 euro me li faccio dare, di me non lo do, perché è nuovo. Questo Panasonic, se riesco a dargli me ne compro uno di ultima generazione. Ehi, io ce l'avevo a casa, però si vede abbastanza bene. Il problema è che consuma un pochettino, la differenza, infatti è classe mica, la differenza dei LED tradizionali, dai, dei LED. Il consumo lo so, è superiore, lo so, e vabbè. Niente, là, comunque sai come sei, mi rompo le scatole a me, che mi chiedono computer, quando ce li ho non li vuole nessuno, veramente, ma ne ho tre, ne ho due, no? Quando non ne ho mi chiedono, oppure le TV, ma se ce li ho non li vuole nessuno, quando non ne ho me le chiedono. Comunque io mi sono venduto anche, che me l'hanno regalato, me l'ho sistemato, una cassatina proprio. Un Samsung sempre 40 mi pare, 42, forse 42. E ora sono venuto 150 euro, no, 100 euro. E quello è il prezzo, sì, con garanzia lì dopo quel prezzo lì più o meno, dai. Con 5 anni, dai, 4 anni di... 4 anni, dai. Gavi! Ehi, Acla! Mi ha detto, ma lo smart TV che c'ho io di ultima generazione, quello cos'è? A LED o cos'è? A LED, LED. A LED vanno bene? Sì, sì, sì, sì. Ogni tanto parte qualche LED, bisogna cambiare la striscia LED. Oppure il kit LED. Ah, ho capito, va bene, ancora per tutto, ancora in garanzia. Va bene, va bene. Ok, devo comprare questo cavo, ma ti chiama lo HMD. HDMI. Ma non ho capito, Gavi, scusa, dai, una garanzia di 4 anni, 5 anni, non ho capito, cos'è che hai detto poco fa? No, non ho capito, Luca, cosa hai detto, aspetta. Ho detto, hai detto che do 4-5 anni di che cosa? Di... di vita, no. Ah, adesso vedo 4-5 anni di garanzia, e che cos'è? No, un anno c'hanno di garanzia, no, capito? No, 2 anni di garanzia. Esatto. Due, scusa, sì, due, me ne teniamo di due. 2 anni di garanzia c'è al mio. No, ho capito, no, se c'è un due, allora se tu hai un usato, lo vendi a seconda mano, cioè usato a seconda mano, lo vendi 100 euro, che garanzia puoi dare? Vabbè, io la garanzia mi lascerà in culo. Cosa, ho capito, perché chiaramente do 3 mesi, dai, da 3 mesi a 4 mesi di garanzia, per non prendere una fottitura col cliente, capito? Se magari si guasta a me una settimana dopo, che cosa gli dici? No, no, non è garanzia, non te la posso riparare. Ma poi nel caso che si rovina la scheda, purtroppo le cose usate sono così, capito? E gai su conto, poi vabbè, tu sei... Io le ho venduto, ma garanzia non le ho mai dato, è cosa che magari sì, certo, se da una settimana è capitato, ci ho rimesso di tasca, vaffa a Napoli, però se questo qua sono già passati forse un mese. Lu, fai come ti ha fatto Reggio 5, tu? Come ti ha fatto? Ha costruito, ha fatto una ziminea a uno, in una villa, ed era dentro la ziminea. L'ha detto, mi la ziminea è finita, e invece ti bago, no, pagami, la cui esci. Chi le ha mantenute un rimane, compreso, quando esce ne parlava tutto. E se vuoi dai un giorno, guarda, ti do un giorno di garanzia, ok. Se non te lo porta il giorno dopo, la garanzia è caduta. Vabbè, però è diverso magari. Io se non privato, mi garanzia di borsa da, cioè, alla fine, vabbè, mi è capitato che magari sono rotto per una settimana, ci sono rimasto di tasca io, ma non è che questo qua non mi ha mai dato problemi, mai, giuro, mai, ce l'ho, mi hanno regalato, questo ragazzo che abita sopra di me. Praticamente si è realizzata la scheda alimentazione. Io l'ho cambiata, comprata nuova, da eBay nuova, mai usata, perché ci sono anche gli usati. Ma ti posso garantire che è nuovo, non mi ha mai dato problemi, perfetto. Io questo qua meno di 150 euro non lo do, ma non ho bisogno di soldi, perché cioè alla fine non è che lo sto facendo perché ho bisogno, lo do perché poi magari non va più, invece ancora può andare per tutto l'anno fino al 2021, poi si arrangeranno, ci metteranno un decoder, io lo decoder esterno non le voglio, poi se non riesco a darlo quella cifra lì, aspetto, magari poi lo do in beneficenza. Ma infatti, ho capito, ti volevo chiedere un'altra cosa, ci sei? Io. Ma a me a volte, quando ci sono dei programmi eccetera, mi va in automatico in 4K, è normale? È possibile, se c'è un programma, ma di solito in 4K non sta trasmettendo, forse Sky qualche cosa, però gli altri canali in 4K ancora non ne ho visto. No, solo Sky, sto dicendo Sky, mi provi mai in automatico, cos'è impostato così il televisore? Sì, in automatico va. Ma tu l'hai dunque già visto in 4K, ma cambia la definizione, no? Mamma mia, guarda, mamma mia, soprattutto le partite, una cosa spettacolare, sembra che sei in campo. Oh, e il MIVA l'ha rottamato o la vivi? Il MIVA è rottamato? Il MIVA è cosa che aveva il MIVA? E te ricordi LCD MIVAR? Qua è attaccato a parete, l'ho fatto a parete, tutta la staffa è fatta a parete, quello lì ce lo stavo buttando, perché non te lo posso dire qua, è stato visto, ma forse mi hai già capito, no? Ok. attendeva. Siamo sentiti in radio e mi passando passo e te lo controllo. Ok. È passato, ci ha portato via, riparato, pagato, 5 sacchi, 50, ha durato mi pare un mese. Alla fine ho detto, beh, me lo compro nuovo e questo ce lo butto. Parlando con Luca, che è qua, e te lo può testimoniare, ho detto, Lucio, un televisore che a te non accende. Ho detto, deve essere sicuramente qualcosa sull'alimentazione. Ho detto, io te lo do, guarda se che così me lo metto in cameretta. Me l'ha aggiustato Luca, perché con Luca noi abbiamo un rapporto diverso da quello che lui può avere con altre persone. Me l'ha riparato lui ed è attaccato al muro, si vede da Dio perché c'ha le cose sue, eccetera, si vede da Dio, non ha mai fatto più un problema, a bittini una, mi, capito Gavì? Poi te lo dico diversamente. Io, ma quel televisore, sai cos'è il problema che ha? Che più di 100 canali non ci stanno, capito? Più di 100 canali non ci stanno. Io voglio dire l'America, a me mi serve vedere, c'ho il coso, il come si dice, il decoder esterno, ma solo per mettere, metto solo la scheda, quando ci sono partite magari che loro c'è un programma se lo vogliono vedere nel salone, io vengo qua, mi prendo la scheda dallo Smart TV e la inserisco qua, perché questo non c'è la scheda, quello là invece c'è la scheda digitale, c'è il chip, c'è un sacco di cose, ma è un computer. E quindi me la metto qua e me ne guardo qua le partite. Ma se io inserisco del codice esterno, che ce l'ho, si vedono un sacco i canali, ma a me non mi interessa perché guardo il primo, il secondo, il terzo, Italia 1, canale 5, guardo Focus, T-Max, D-Max, no T-Max, D-Max, cioè guardo le cose così, dai, non è che me ne frega più di tanto, capito? Quindi va bene, però per dirti che l'ha riparato Luca, non per presunzione, ma forse, visto che non è un tecnico professionista, lavora meglio di qualcuno, capito Gavì? Vabbè, se stava riparato questo, io l'avete telefonato, guarda che mi sei guastato, arrangiati, paghi su, fai quello che vuoi, ma non lo devi riparare. Per quanto riguarda, sì, allora se lo stai usando il MIBA con digitale separato, un altro paio di maniche, il MIBA allora lo stai facendo funzionare come monitor, allora ti dura altri anni. Bene, va Gavì, bene, me l'ha riparato Luca, con due citi, che non li voglia ne manco, capito? Li ho dati per forza, perché è una persona che veramente non ha la tecnica che puoi avere tu perché è il tuo lavoro, però si impegna e riesce sempre a risolvere cose che magari i professionisti la prendono così a culo di scimmia, capito? Perché è già successo non solo col televisore, ma non immagino, non posso, ma mai già capito, no? Mai già capito. È successo anche con un altro alimentatore, la stessa storia, poi riparato la Fabrizio e ce l'ho e vita natural durante non ha mai scoppiato, ad abito una ghita mi è scoppiato, lasciamo perdere, dai. Non voglio criticare nessuno, però le cose bisogna fare con la testa, non con i piedi, vai Marco, ancora ci sei? No, vai Ugarì. Sì, vabbè, comunque il servizio già ne ho riparato, abbastanza. Ricordati che in tutte le cose ci vuole amore e pazienza, poi il resto viene da sé. Io ho un cugino che lavora, ogni tanto lo chiama l'autoparco, mi chiama lui, ci sono dei televisori lì voi, la verità tanti sono capitati che purtroppo non sono riusciti a sistemarli per via della scheda di alimentazione, controllata bene, Dio di tutto quanto, cioè tante cose, là. Però ho detto non ci perdo molto tempo, ovviamente un esperto sa dove è il danno, ma ne ho riparato anche altri, adesso fusibile oppure dei piccoli componenti, ma si vedevano proprio, sistemati e venduti. Quando si vede magari qualche integrato scoppiato può succedere, fusibile partito, cose esterne, ma quando capitano su scheda digitale è un casino, guarda, ho difficoltà anche io molte volte, perché poi quando vai in una protezione può essere qualsiasi cosa. Lo so, poi aspetta, poi va bene uno qua, ma vabbè, quello non mi interessa manco ripararlo. praticamente come sto qua, vabbè, rimane il pannello, ma io li procuro tanto tramite mio cugino, perché male li buttano e si bruciano le schede, capito? Oppure qualche cazzata, ecco. E recupero questi pannelli qua. Allora, questo qua cosa succede? Si accende la spia, schiaccio, si spegne la spia e rimane, capito? Tu devi dare l'input e non parte. Ti ho mandato la foto, capivi? Quello che c'è sotto è il decoder esterno, l'ho applicato direttamente a parete, e quello è a parete, e funziona da Dio, veramente molto molto bene, grazie a Luca, capito, che ci ha preso l'impegno, l'ha riparato e funziona bene, ci non si devono lampendi. Sì, sì, sì, già fai bene. Fai bene, non come molta gente, cazzo, che appena si butta le cose, cazzo. Ma fate tutto! No, no, poi Luca stesso me l'ha detto. No, va bene la televisione, c'ha questo, l'ho messo a posto. La verità è perfetta. L'ho messo qua in stanza, mi sono fatto l'impianto, capito? Ho portato il cavo dell'antenna che passa dall'altra, da una stanza all'altra, perché qua non ce n'era. E è tutto sotto un battiscopa, sotto traccia e niente, è attaccato al muro con due tassellini, c'è il decoder, tutto ordinato, pulito e basta. Poi se vuoi ti mando la foto dei portatili che c'ho. E via via. Va bene, dai. Comunque anche questo è diventato un casino come lavoro, cazzo. Devi stare sempre da una parte all'altra, anche per cercare pezzi e tutto quanto, cazzo. Anche perché molte volte per un televisore ci sprechi anche una giornata, cazzo, per capire cosa cavolo c'è. Allora Gabi, a me è capitato, perché la gente ha paura di portarveli, ma non perché siete incapaci, per spendere, capito? A me molte volte vai, perché poi il controllo usi con la scheda dell'alimentazione, molte volte si può sistemare e poi molte volte non ci perdo tempo. Però io ho cambiato molti connettori di antenna, perché sai, magari hanno il cavo corto, lo spostano e ne facciamo tutto. E più di uno, e più forse una decina ne ho riparato. Ma io quelli li ricostruisco, se hanno lo spinotto vecchio. È un lavoraccio perché devi togliere il selettore, però li sistemo, dai. No, io il selettore non levo, già trovo il sistema per farlo, e ne ho sempre trovati i sistemi. E poi, vabbè, glielo saldo bene, in giro, con lo stagno, e poi per sicurezza, perché la gente è ignorante, perché secondo me è ignorante, gli faccio lo spezzoncino, tipo, adesso, una ventina di centimetri, circa 30, e glielo blocco magari nel piede e glielo attacco, il connettore glielo attacco fisso, cioè lo spezzone che gli faccio, e poi se lo devo attaccare lo attacco con lo spezzoncino. Eia, sì, già va bene, dai. Ma adesso no, vabbè, adesso no, non un po', non... Guarda, ne ho fatto uno, una tipa, un'amica, ci ho fatto un'amica, ma 3-4 mesi fa, mi ha detto lui, se ne si può aggiustare, beh, io ce lo butto, adesso io potevo dire da buttare, però sono troppo onesto, glielo ho sistemato, è anche uno smart, Sì, smart, lo stesso, di nuova generazione, già sono abbastanza anche più veloci rispetto agli altri. Oh Gabby, adesso che ci sono, guarda se riesci a procurarmi, se ti viene bene, pagando, non gratis, ovviamente pagandoli. Mi serve un pannello LCD di un Akai 40 pollici, è sempre smart. E lì ci vuole il modello del pannello, devi aprirlo e leggere il modello del pannello, capito? Non è che neanche dal modello del televisore lo puoi cercare, non dal modello proprio del pannello, devi aprire il televisore e vedere che pannello monta, perché non sono tutti uguali i pannelli, capito? Allora c'è scritto 4026 il modello, vabbè, nel caso io trovo, ma mi fa sapere un po' più o meno la spesa. Sì, ti prendo la foto e mi mandi su WhatsApp. Ok, dai, faccio il tuo numero, ti mando la foto, perché ho trovato su internet un altro tipo voleva tipo una cinquantina di euro usato, e gli ho detto ma funziona, non è che mi stai prendendo in giro. E mi ha detto anche che era garantito. garantito, non so che cosa. Vabbè, ho aspettato un po', cioè la ricerca non ce l'ha più. Vuol dire che era questo. È una fregatura, non so, non era questa, così si dice a Roma. Non volevo le finocchiare, ho capito, vabbè, andata male, è andata. Vabbè, adesso domani Roma ho trovato la foto. Perdonatemi che io vado a pappare, dai, che sono già quasi le 9 e vado a fame. Se coincide ci sentiamo dopo. Ciao a tutti, a dopo cambio. Ciao, a dopo. Già è acceso qua, dai. Adesso andiamo a mangiare. Ci salutiamo Luca, allora ci sentiamo, niente, non abbiamo un messaggio, dai. Tanti saluti anche a Massimiliano. Tra e Luca. Venga, ciao Gabi, dai, ciao Massimiliano, buona cena e buon tutto, là. Ci ha chiamato la foto Gabi, grazie, ciao. Ciao Giattino, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao Cla, dopo, ciao Cla. Ciao Lu, ci sentiamo, ciao Claudio. Ciao Tino, che ve lo siete dimenticati, e ciao a tutti quelli che stanno ascoltando. Ci sentiamo più tardi se coincide, se no a casa. Ciao. Venga, ciao Buldo. Ah, che Tino c'era, Bu, ciao Tino. Ciao, poi Maconino Condo. C'è nessuno? Mi sa, sono andati tutti via a Tino, a mangiare. Ah beh, perché mi sono lontanato tanto chiacchierando di televisione, quindi mi sono fatto una commissione a veloce. Ma non ho capito, ti sei allontanato? Mi sono allontanato perché ho fatto una commissione a veloce quella dietro a casa, diciamo. Ah, ho capito. Bene. E tu non mangi? Non mangio. Non è che sono un po' di quelle cose chiamate così a ribisari. Fabette nostre però, Quelle fresche, verdi? Via. Le ho fatte qua la campagna, le ho raccolte, anzi le ha raccolte. Sbucciate e fatte. E la fatte anche la 25, là. Guarda, la settimana scorsa. Aspetta che più la fretta, se no mi prendono di le zanzare qua, sono... Bene. Oh yeah. Non sono riuscito, lo sai, a girare la telecamera. Mi è capitato un altro computer, manco io, va, sono sincero. Ti direi una barra, non mi sono riuscito. Ma Antonio, ma mi ha caricato l'ho scaricato, però non mi fa vedere, non mi fa entrare. Mi dice che mi devo registrare, mi sono registrato e niente, guarda nei tuoi mail, sono andato nei mail, non c'è niente, riaccedevo le cose, nulla, non mi faceva fare niente. Sto guardando così, alla fine pure a cagare, vuol dire che metto una web esterna, adesso la collego al portatile e vediamo se fa con quella. Se si piace driver va bene. È l'unica, guarda. Peccato perché la compra portatile te lo portate dove volevi e anziché stare qua dove praticamente la stazione se ne va in cucina e fa quello deve fare, in camera sua, capito? Allora, non so se tu ce l'hai presente, no, forse non sei venuto qua a casa, ma non mi ricordo se eri entrato. Ti ricordo la stazione io. Quella? Certo, ti ricordi dove ho io la stazione? No. Vabbè, comunque, eri presente, all'entrata io ho la cucina e il salone, no? Poi un attimo che mi sono chiamato il telefono. E gli atti, mi sto sistemando, un computer, un portatilino, non so manco di chi è, guarda, di quelli piccolini, adesso di qualcuno me l'ha lasciato, però è di quelli che hanno la schedina dentro, non ha l'hard disk, è poco, chissà 4 giga di memoria. Va bene, aspetta che faccio una prova, ragazzi, ieri ho provato con Claudio stasera, però ho fatto una cagata. Mi sono dimenticato di mettere il broccio. Claudio, ci sei, io stai mangiando. No, Carlo è andato a mangiare. Tutti a mangiare sono andati, tutti. Vabbè, aspetta che mi metto un PL e votiamo una cosa, dai. Luca. Ehi, Atti. Ha cambiato la modulazione? Come? Scusa? Ho detto la modulazione, ha cambiato. È un bel forte la sta qua. Boh, è un bel forte. Bene, esatto, assolutamente. Boh, adesso vediamo appena se rientra, vediamo un attimino cosa ne pensa. No, ma avevo, adesso cambia, aspetta, tieniti presente questa modulazione. Ma guarda, così ha cambiato, vero? Beh, più bassa. Vabbè, ma stava comprimendo, forse. No, ma così è bella forte, cavolo, come spinta. Perché ho fatto una cagata io. Vabbè, me ne sono dimenticato. Poi me ne sono ricordato quando me l'ha detto Claudio. Ero senza processore, capito? Ma va alla grande, insomma, lo sai che problemi non ne ho, te lo dico. Bene, bene, dai. Un attimino. Di lusso, quindi PC e comincia a guardare. Beh, guarda il segnale, cosa ti segna a te? Ora. Ora. 9 più 20 mi stai arrivando. Aspetta. Ok, 9 più 20. Bene, allora va bene. Alla grande, sì. Sembra la modulazione però, Luca. Quello qua, cos'è qua? Sai cos'è qua? Che cos'è? Che quando abbiamo provato stasera, era senza processore. Sì, ma anche col processore, te la morsica. Non è chiara come deve essere, Lutino. Io così ti ascolto con 440. Beh, è quello, ti stavo chiamando poco fa, infatti mi ha detto che eri a mangiare. Sì, sto mangiando, c'ho la radio accesa, vi ho sentito, sono entrato, ho detto, migliorato sicuramente, ma non è chiara come deve essere. E poi ti ripeto, vedi anche Luca, sempre 9.20, sempre 9.20, non si muove da 9.20, quando 9.20 arrivi anche senza. No, ho ricollegato perché mi sono ricordato che era senza processore e poi avevo toccato leggermente il cavo. Vabbè, no, era così. Ho visto che sono risaliti, ma ecco perché te l'ho detto. Perché col processore c'è più spinta, è normale, però il prodotto non cambia, è sempre uguale la soluzione. Se io vedevo che da 9.20 come arrivi normale liscio, quando attacchi hai un incremento di 9.25, 9.30, allora ti avrei detto sì, usalo, ma così non ha nessun significato. Infatti, provo a attenuarmi, a te non mi guarda quanto è, se così magari conosci che cambia qualcosa, mi hai attenuato? Sì. E quanto è adesso? Ti ho portato a Santiago 7. Bene, non ho cambiato niente adesso. Non arrivi neanche a 9 attenuato, arrivi a 8. Quindi da 7 a 8, quindi l'incremento c'è. Ma certo che c'è, c'è l'incremento, ma non è sufficiente per come per la potenza che stai usando. Non è sufficiente, perché se tu usi 80 watt e mi arrivi a me 9 più 20, ok, ma anche attenuato arrivi la stessa cosa, è sempre un punto S che sale. Già fatto, già fatto. Ho appena acceso, aspetta. Attenuato, l'incremento c'è, è chiaro che c'è, però la modulazione non mi piace. tecnologia in diretta. 7 attenuato, modulato 8, non cambia niente, te l'ho detto. Sì, 7 attenuato, quando moduli poi a 8, come quando attacchi, come ti ho detto prima. Senza attenuatore vai da 15 a 20, come quando attacchi, uguale. Bene, bene, bene, bene. Vabbè. Allora lo cestiniamo, lo conserviamo, è differente. Puoi lasciarlo inserito in stazione, se serve, magari in lontananza puoi recuperare qualche decibel in più o addirittura qualche dB in più. Non lo so, quello lo devi decidere tu, però in città no, da me non cambia niente, assolutamente. Ti distrugge la radio e basta, capito? Sì, niente, mi sono voluto togliere un autospizio perché ho detto ma forse lo stavo usando senza processore. Sì, vabbè, processore o no, mi comanda tutto il sistema LC e company. Io te l'ho detto, già vi fai, se vuoi un bel lineare come quello che ho io, ti prendi un RM Italia allo stato solido, tu lo colleghi, ok, e dai, io le do 20 watt d'ingresso col 756, 20 watt in banda laterale, me ne tira fuori 500 pini, ok, in AM con 20 watt me ne tira con 20 watt me ne tira fuori 270-280, ma non hai problemi di accordo, di nulla, cambi, sono a 27.075, vado a 27.805 a fare un DX, lui cambia da solo, non deve accordare nulla, va di tutto a rasura, quelli sono belli amplificatori. Sì, già lo so, è un'idea che mi frulla da un po', però adesso vediamo. Bene, voi avete mangiato, no, adesso mi faccio, due favette mi assaggio, che mamma ha fatto le classiche favette a ribisari. Buona, settimana scorsa ce l'avevo io. Adesso, vero, se le trovo fresche, perché a me piacciono molto fresche. No, io anch'io, adesso vado e mangio una frutta e poi, magari se c'è qualcuno mi faccio altre due chiacchiere, se non c'è niente alla TV, se c'è qualcosa interessante, come ieri, mi ho guardato Ciao Darvi, mi rimango alla TV, vai a mangiare e ci aggiorniamo dopo, ok? Questa non strappa la modulazione. Vabbè, questa è la sua, è normale. Senta niente, dai. Oh, vai bene. La mia com'è? Forte ma non strappa, va bene anche la mia? Se te l'ho detto che stai usando l'80, io mi confondo con l'80-85, però va bene, più forte, un pochino, ha una virgola in più, ecco, giusto per farti capire cos'ha. Sì, perché c'è quel trimmerino dietro che l'ho sollevato leggermente, però allo stesso tempo ho dato appena un ritocco al Mickey Game, capito? E queste spingono un bel mio, il 30 e il 40 sono due bestie come il radio. Va bene, muscolo, dai, ci sentiamo dopo, saluto anche a Luca, a dopo se coincide, ciao! Ciao Luca, vado a mangiarmi le favette, vai! Io sono qua, io tanto ne ascolto, le sto controllando il computer, va bene, fate con calma. Eia, a dopo. Aspetta un attimo, sì che ti sento. Oh, scusate, Marco c'è per caso? No. Ok, vabbè, solo tu e Luca ci sei. No, per il momento sì. Io dai, riprendete voi, sto facendo cosa adesso. Sa. Ciao.